subito, d'altronde, si produsse un duplice piccolo imbroglio. Nel momento stesso in cui ero entrato nel salotto, il signor di Germain, senza nemmeno lasciarmi il tempo di salutare la duchessa, mi aveva guidato, come per farle una bella sorpresa e con l'aria di dirle: «Ecco il vostro amico, vedete, ve lo porto per la collottola». Mi aveva guidato verso una signora di statura abbastanza bassa. Ora, da molto prima che, spinto dal duca, io le arrivassi davanti, quella signora aveva preso a rivolgermi ininterrottamente, con i suoi larghi e dolci occhi neri, i mille sorrisi d'intesa che riserviamo a una vecchia conoscenza, la quale forse non ci riconosce. Poiché era proprio questo il mio caso, non riuscivo assolutamente a ricordarmi chi fosse. Mentre mi avvicinavo, girai la testa dall'altra parte, in modo da non dover rispondere finché la presentazione non mi avesse levato d'imbarazzo. Nel frattempo, la signora continuava a tenere in equilibrio instabile il sorriso a me destinato. Sembrava ansiosa di sbarazzarsene e che io finalmente le dicessi: «Ah, ma certo, signora, mia madre sarà felice di sapere che ci siamo rivisti». Il mio impaziente desiderio di conoscere il nome della dama era pari al suo di vedersi infine salutata con piena cognizione di causa e di poter spegnere quel suo sorriso indefinitamente prolungato come un sol diesis. Ma il signor di Germain se la cavò malissimo, almeno a mio giudizio, limitandosi a pronunciare, o così mi parve, il mio solo nome, di modo che continuavo a ignorare chi fosse la pseudo sconosciuta la quale, da parte sua, non ebbe il buon senso di nominarsi, tanto le ragioni della nostra intimità, a me del tutto scure, sembravano esserle invece trasparenti. In effetti, non appena le fui accanto, anziché tendermi la mano, prese con familiarità la mia e mi parlò come se fossi stato altrettanto al corrente dei gradevoli ricordi cui si riferiva mentalmente. Mi disse quanto sarebbe dispiaciuto ad Albert, che doveva essere suo figlio, di non essere potuto venire. Passai in rassegna i miei ex compagni cercandone uno che si chiamasse Albert, ma non ne trovai altri all'infuori di Bloch, e quella che mi stava davanti non poteva essere Madame Bloch, morta ormai da diversi anni. Mi sforzavo invano di indovinare a quale passato comune a entrambi lei si riferisse col pensiero, ma non lo scorgevo attraverso il giaietto traslucido di quelle larghe e dolci pupille che lasciavano filtrare solo il sorriso, più di quanto si riesca a distinguere un paesaggio dietro un vetro nero, sia pure avvampato dal sole. Mi chiese se mio padre non si stancava troppo, se avrei accettato un giorno di andare a teatro con Albert, se stavo un po' meglio. Poiché le mie risposte, vacillando nell'oscurità mentale in cui mi aggiravo, si fecero chiare solo per dire che quella sera non mi sentivo troppo bene, mi procurò lei stessa una sedia, dandosi per me un daffare cui gli altri amici dei miei genitori non mi avevano mai abituato. Alla fine fu il duca a fornirmi la chiave dell'enigma. «Le piacete molto», mi sussurrò all'orecchio, che subito reagì come se quelle parole non gli suonassero nuove. Erano le stesse che Madame de Villeparisis aveva dette alla nonna e a me quando ci aveva presentati alla principessa di Luxembourg. Allora capì tutto. La dama, quella dama, non aveva niente in comune con Madame de Luxembourg, ma, dal linguaggio di chi me la propinava, risalì alla specie della bestia. Era un'altezza. Non conosceva affatto né la mia famiglia né me, ma, uscita dalla più nobile delle razze e in possesso del più grande patrimonio del mondo, figlia del principe di Parma, aveva sposato un cugino ugualmente principesco, desiderava, nella sua gratitudine per il creatore, testimoniare al prossimo che, per quanto povera e umile potesse essere la sua estrazione, lei non lo disprezzava. Per la verità, avrei dovuto indovinarlo dai suoi sorrisi. Avevo visto la principessa di Luxemburg sulla spiaggia acquistare del pan di segale per darlo alla nonna come a una cerbiatta del giardino zoologico, ma era soltanto la seconda principessa del sangue cui venivo presentato ed era scusabile che non avessi riconosciuto i tratti generosi dell'amabilità dei grandi. D'altronde, essi stessi si erano incaricati di avvertirmi che non ci facessi troppo affidamento sulla loro amabilità, visto che la duchessa di Guermantes, dopo avermi fatto tanti cenni graziosi all'opera, era parsa furiosa che la salutassi per strada, come quelli che, per aver dato una volta un Luigi a qualcuno, pensano così di essersi messi, per quanto lo riguarda, la coscienza a posto per sempre. Quanto al signor di Charlieu, i suoi alti e bassi erano ancora più contrastanti. E per finire, ho conosciuto anche, come si vedrà, altezze e maestà d'un'altra specie, regine che giocano a far la regina e si esprimono non secondo le abitudini delle loro simili, ma come le regine nei drammi di Sardou. Se il signor di Guermantes si era tanto affrettato a presentarmi, è perché a un ricevimento che qualche ospite non sia conosciuto da un'altezza reale è un fatto intollerabile e non può protrarsi per un solo secondo. Con la stessa fretta, Saint-Lieu aveva chiesto di essere presentato a mia nonna. D'altronde, per un residuo ereditario della vita di corte che viene definito cortesia mondana e che non è superficiale, giacché per un ribaltamento dall'esterno all'interno la superficie diventa essenziale e profonda, il duca e la duchessa di Guermantes consideravano come un dovere più essenziale della carità, della castità, della pietà e della giustizia, abbastanza spesso trascurate almeno da uno di loro, quello assai meno flessibile di usare invariabilmente, rivolgendosi alla principessa di Parma, la terza persona. Non essendo mai stato in vita mia a Parma, benché lo desiderassi dal tempo ormai lontano di certe vacanze pasquali, conoscerne la principessa che, lo sapevo, possedeva il più bel palazzo di quella città unica dove tutto, d'altronde, doveva essere omogeneo, isolata com'era dal resto del mondo, fra le lisce pareti, nell'atmosfera soffocante come una fosa sera d'estate nella piazza di una piccola città italiana, del suo nome compatto e troppo dolce, avrebbe dovuto sostituire di colpo, a ciò che cercavo di figurarmi, ciò che realmente esisteva a Parma, in una sorta di arrivo frammentario e immobile. Era, nell'algebra del viaggio alla città di Giorgione, come una prima equazione contenente quell'incognita. Ma se per tanti anni, come un profumiere a un blocco uniforme di materia grassa, avevo fatto assorbire a quel nome, principessa di Parma, il profumo di migliaia di violette, in compenso, adesso che avevo visto la principessa, dopo essere stato convinto fino a un attimo prima che fosse perlomeno la Sanseverina, ebbe inizio una seconda operazione, destinata a terminare, per la verità, solo alcuni mesi dopo, e consistente, sulla base di nuove malassature chimiche, nell'espellere ogni essenza di violetta e ogni profumo stendaliano dal nome della principessa, per incorporarvi in sostituzione l'immagine di una donnina nera, dedita alla beneficenza, di una gentilezza così umile che si capiva subito da quale altero orgoglio avesse origine. Del resto, simile, differenza più differenza meno alle altre grandi dame, la principessa era tanto poco stendaliana quanto, ad esempio, nel quartiere dell'Europa a Parigi, la Rue de Parme, che assomiglia molto meno al nome di Parma che a tutte le strade circostanti e fa pensare meno alla certosa dove muore Fabrizio che alla sala d'aspetto della Gare Saint-Lazare. La sua gentilezza aveva due spiegazioni. La prima, generale, era l'educazione che, figlia di sovrani, aveva ricevuta. Sua madre, non solo imparentata per matrimonio con tutte le famiglie reali d'Europa, ma anche, diversamente dalla casa ducale di Parma, più ricca di qualsiasi principessa regnante, le aveva inculcato, sin dalla più tenera età, i precetti orgogliosamente umili di uno snobismo evangelico. E adesso ogni tratto del viso della figlia, la curva delle spalle, i movimenti delle braccia, sembravano ripetere: «Ricorda che se Dio ti ha fatta nascere sui gradini di un trono, non devi approfittarne per disprezzare coloro cui la divina provvidenza, sempre sia lodata, ha voluto che tu fossi superiore per nascita e ricchezze. Al contrario, sii buona con i piccoli. I tuoi avi erano principi di Cleve di Juliet dal 647. Dio, nella sua bontà, ha voluto che tu possedessi quasi tutte le azioni del canale di Suez e il triplo delle Royal Dutch possedute da Edmond de Rothschild. La tua discendenza in linea diretta è stabilita dai genealogisti a partire dall'anno 63 dell'era cristiana. Hai due imperatrici per cognate. Non dare mai l'impressione, quando parli, di ricordarti di tali immensi privilegi. Non che siano precari, non si può togliere nulla all'antichità della razza e ci sarà sempre bisogno di petrolio, ma è inutile insegnare che sei nata meglio di chiunque altro e che i tuoi investimenti sono di prim'ordine dal momento che lo sanno tutti. Sii soccorrevole con gli sventurati, assicura a tutti coloro che la bontà celeste t'ha fatto la grazia di collocare sotto di te ciò che puoi dar loro senza decadere dal tuo rango, vale a dire aiuti in denaro, magari prestazioni da infermiera, ma, ben inteso, nessun invito mai alle tue serate, perché non farebbero alcun bene a loro, mentre, diminuendo il tuo prestigio, toglierebbero efficacia alla tua azione benefica. Così, anche nei momenti in cui non poteva fare del bene, la principessa si sforzava di mostrare, o meglio di far credere con tutti i segni esteriori del linguaggio muto, che non si riteneva affatto superiore alle persone fra le quali veniva a trovarsi, e con ciascuno aveva l'affascinante cortesia che le persone ben educate hanno con gli inferiori, e di continuo, per rendersi utile, spostava la sua sedia per lasciare più spazio, mi teneva i guanti, mi offriva tutti quei piccoli servigi, indegni delle altezzose borghesi, ai quali si prestano con gioia le sovrane, oppure, per istinto e per abitudine professionale, gli ex domestici. L'altra ragione dell'amabilità dimostratami dalla principessa di Parma era più particolare, ma niente affatto dettata da una misteriosa simpatia per me. Per il momento non ebbi tuttavia modo, questa seconda ragione, di approfondirla. Infatti il duca, che sembrava aver fretta di terminare le presentazioni, mi aveva già trascinato verso un'altra delle fanciulle fiore. Sentendo il suo nome, le dissi che ero passato davanti al suo castello, non lontano da Balbec. «Oh, come sarei stata felice di mostrarvelo!» disse lei quasi sottovoce, come per modestia, ma in un tono sincero, tutto penetrato dal rimpianto per aver mancato l'occasione di un piacere assolutamente speciale, e con uno sguardo insinuante aggiunse: «Spero che non tutto sia perduto, e poi devo dire che ancora più interessante per voi sarebbe stato il castello di mia zia Brancà. L'ha costruito Mansart e la perla della provincia». Non solo lei sarebbe stata contenta di mostrarmi il suo castello, ma anche sua zia Brancà sarebbe stata altrettanto entusiasta di ospitarmi nel suo, a quanto m'assicurò quella dama, evidentemente persuasa che, soprattutto di questi tempi, quando la terra tende a passare nelle mani di finanzieri che non sanno vivere, sia di capitale importanza che i grandi mantengano alte, con parole che non impegnano a nulla, le tradizioni dell'ospitalità nobiliare. Ma se parlava così era anche perché, come tutte le persone del suo mondo, si sforzava di dire le cose che potessero fare più piacere all'interlocutore, di ispirargli la più alta stima di se stesso, di fargli credere che quelli a cui scriveva ne erano lusingati, che onorava chiunque lo ospitasse, che tutti bruciavano dal desiderio di conoscerlo. Questa volontà di suscitare negli altri un concetto lusinghiero della propria persona esiste, a dire il vero, anche in certi ambienti borghesi. È una benevola disposizione che si presenta allora sotto forma di qualità individuale, compensatrice di un difetto, non, ahimè, negli amici più sicuri, ma almeno nelle compagne più gradevoli. In ogni caso, è una fioritura del tutto isolata. In una parte cospicua dell'aristocrazia, invece, questo tratto del carattere non ha più nulla di individuale. Coltivato dall'educazione, nutrito dall'idea di una propria personale grandezza che non può temere di umiliarsi, che non conosce rivali, che sa di potere, con l'affabilità, rendere felici delle persone e si compiace di farlo, esso si è tramutato nel carattere generale di una classe. E persino coloro cui difetti personali troppo contrastanti impediscono di serbarlo nel cuore, ne portano una traccia inconsapevole nel loro vocabolario e nei loro gesti.